dove è Alessio? Alessio? Claudio? Sì, io. Alessio, come sta modulato? No, non me ne ricordo la sua. Poi le dico. Non si entrerà adesso. Entrerò fra un po'. Ehi, come stai là? Mi senti? Sì, dove sei? Qua a mio Torino, là. Sei a Puglia, a bomba. E cosa era il problema?